Giomari, ma vedi? Dite! Oui. Allora Giomari! Tu mi sei faccia di tutto! Eh? Sì, vabbè, si mangiato, si vedi! Piazzata le antenne! No, non ho piazzata, Giomari! Sì, la gente San Luca stamattina! Infatti do la canna da pesca per metterla come palo, ho fatto una cosa, mi arrangio così, ho trovato un palo di 2 metri, sarà già basta quello. Ah, capito. Vabbè, vediamo un po', va. Oh, comunque mi stai arrivando forte, fortissimo. Però sto... dammi 10 minuti che sto facendo cosa, ha compito, gli rientro subito. Ehi, Giomari, dai, già sono qua, se lo pensavi, dai, Manuele, prova a chiamare il Torre Squalo se ti sente. Giomari, io sto andando guardando la casa, il caso è, a non ho capito niente, Manuel. Ho detto, sto montando questa antenna qua, questa che è di giri, che abbiamo fatto in campagna. E in caso è per 10 minuti, 5 minuti per provare come esce la riduzione. E va bene, dai. Fai, è acceso. E in caso è quando ho finito, casomai vengo lì, dai. Fai. Maria, Manuele, sono questa... come si chiama? Il fermo per l'antenna, Cos'è? Emanuele, se l'impresa è... Se l'impresa un paio di cose per l'antenna, che cosa? Per l'antenna, di riduzione, non so come si chiama. Ma io non ce l'ho, l'aveva fatta Luca. Luca mi sembra che si era sfasciato quello, come lo stava avvitando. Non ce l'ho io, no. Io non ce l'ho. Sì, no, forse, aspetta che forse ne è un altro. Adesso guarda, aspetta, vedrai un po'. Ok, va bene, dopo, adesso che gliel'ho presa, dopo glielo torno. Adesso guardo un po', mi sembra, non sono sicuro se ce l'ho, però adesso guardo, vai. Ok, va bene, perché là in caso mai faccio io adesso. Ma lo è, e già ce l'ho già. Andiamo adesso allora, dov'è lì? Come? E vai, sai che sono, vai. Tore, ehi! Cazzo, si ha fatto scala qua, va bene. Dovrebbe andare bene, sì. Perlomeno io ti sento bene. Beh, ma il segnale non guardare, quello che conta la radio, capito? Il segnale, lo sai che arriva a fondo scala lo stesso. Sull'FM il segnale, per quando è vicino non ce la fai a vederlo bene, capito? Allora, poc'anzi ti sentivo, poc'anzi ti sentivo abbastanza bene pure, già lo sai, Tore, lì a vicino al ponte, nuovo. Lo sto chiamando e non mi risponde, forse ha pensato che ho chiuso. Aspetta, Tore, Manuele, aspetta che ti chiamo adesso. Attenzione, Emanuele, Giomari. Ehi, non rispondi. Sì, che c'è, Manuele, lo senti, Tore? Emanuele, attenzione, Emanuele. Allora, la questione è seria, perché Emanuele ti sente tu, però tu a lui non lo senti. E siamo sempre nello stesso punto come l'altra volta, ti ricordi? Ma poco fa lo sentivo io, quando stava parlando lui poco fa lo sentivo. Perché era con l'antenna sua, era con l'antennino suo, mentre invece con l'antenna esterna tu non lo senti. No, infatti con l'antenna esterna non lo sento. Aspetta un attimino, ma noi prova a mettere solo l'antennino, togli quell'antenna, dai, e dopo lo chiami. Giomari. Chiama Tore. Tore. Tore, lo senti? Non da dove? Non lo sento adesso io, per niente. E poc'anzi lo sentivi? Sì, prima lo sentivo, forse secondo che parte era. Mettiti come era prima, Manuele. Sempre no, Ghiro, sempre qua, la stessa posizione. Non si sente, perché prima ti sentiva. Un po' strana veramente la questione. Se si mette dove era prima, quando l'hai chiamato, Lo sentivo io. Allora, va, non intendo ban nulla. Non si sente, Manuele. Poco fa invece ti sentiva perfettamente, senza la, solo con l'antenino suo. Poi adesso che c'è con l'antenna esterna non ti sente. Boh, strano, Ma aspetta che prova. Perché deve essere in un posto che in zona d'ombra. Forse per quello tu, boh. Aspetta, forse sta facendo qualcosa. Ma non faceva a qualche altro una cosa del genere. Che magari uno sentiva l'altro no. Capito? Beh, e poc'anzi io lo sentivo a fondo scala, lo stesso, come ho detto a fondo scala. Però a te non arriva. Giomari, dipende dal punto che si mette, secondo il punto che si mette io non l'ascolto. Anche quello, secondo il punto, lui rimane dietro di me, come sono io, ad esempio, a farti dietro. In giardino, lui ha pian terreno, capito? Forse per quello magari che il palazzo c'ha in mezzo, capito? Infatti se c'è il palazzo io sono negativo per lui, magari lui mi sente ma io non lo sento a lui. Ma lo sentivi poc'anzi, era sempre lo stesso punto, così mi ha detto. Dille a parlare, a vedere, che se no non la coso. Dai, Emanuele. Adesso appena ti sono riuscito a sentirti, ma appena però mi... Bogu, Maria, avannuda. Ha messo l'antenna sulla baracca, capisce? Per cui ecco perché rimane dietro, c'è il palazzo, un palazzo in mezzo, davanti, sicché non passa. Sì, non passa, anche con l'antenna... Con l'antenna esterna non passa, è un macello veramente. Boh, Manuel, adesso con l'antenna sì, io magari forse perché sono vicino e lui è più lontano, però amore, prima ti sentiva bene, adesso poco a poco ti ha sentito adesso. Emanuele, sei ad Arezzo a Rubalazzi, se c'è un ostacolo, a momenti può passare, ma a momenti no, capito? Ecco com'è la faccenda. E invece, essendo l'antenna a fuori, libera, allora passa, ma se c'è un ostacolo avanti, sono frequenze balorde queste qua, capito? È una frequenza balorda quello del CPMR e non passa se c'è l'ostacolo. E allora quello è un macello. Tore. Viaggio Maria. Non lo senti, no? Nuda che nuda. Proprio zero. Non ti sente, Tore. Non ti sente nuda, Manuele. Manca appena adesso. Prima ti ha sentito perfettamente, però dopo sei sparito. E prova a vedere, va. Prova a vedere, siamo qua, vai. Un altro po', fino alle 8 siamo qua, vai. È un macello, è la frequenza balorda, inutile, se c'è lo stacco non passa, è proprio in terra, lui, piano terra, e c'ha il palazzo proprio, perché lui abita pian terreno, capito? Che lui c'ha, alle spalle c'ha il palazzo suo stesso. Allora si dovrebbe portare almeno l'antenna su. Con il cavo o l'antenna su? Lo so, non c'è il cavo, ecco. Io mi sembra 15 metri, mi sembra una cosa così, ma non avevo altro. C'è il posto dove metterla sul tetto, dove va la mantova, però non c'è il cavo, perché stava provando nel cortile della cabina, capito? Lo so, ma se no è in asso, no, non funziona. Aspetta che chiama Bacchisio, se risponde, il 27. Bacchisio, torna a casa, ancora a mal di gola, Sì, Giomari, è a mal di gola. Becca, dov'è là Bacchisio che... Insomma, a Pina. Vabbè, Giomari, mi sacciamenti. Ci sentiamo domani, ci sentiamo. Alle prossime, ok, ciao Giomari. Salutamelo a coso. D'accordo. Adesso la sartoria di farci l'antenna e la mette a prendere in mano a vedere un po'. Vabbè, dai. E sai, chiudendo, chiudi pure. Ci sentiamo domani, dai, saluto in casa. ciao. Ok, ciao Gianmarco.